se parlo mi senti? Sei? Davvero? Sono a casa io. Sì. No, non so, abbiamo fatto una cena l'ultimo dell'anno, ma la roba da niente. No, eravamo io e un'altra coppia, Gabri presente, che anche loro erano rimasti a piedi, non sapevano dove andare. Allora abbiamo detto mangiamo insieme qualcosa, poi andiamo a Bergamo a fare un giro, ma ci siamo un po' scazzati. Ti è arrivato un messaggio? Ah, buono. Tutto a posto, comunque, sei benissimo, benissimo, di Dalasso. Sì. Quando tornate voi? Sì, ho capito, ho capito. Ma sei lì con Kita, con la Stefania e basta, o anche con i suoi? Pacco. Va bene, dai, ascolta, quando comunque sabato prossimo dovrei essere qua. Sabato sera non ci sono perché c'è qua gente a casa, quindi sto a casa. Però venerdì magari ci possiamo sentire. Dai. Va bene allora. Tutto bene, tutto bene. Sì, sentire avanti. Cade fa, cade zapato di pastiglie, eccetera, eccetera. Pota. Va bene. Ah, pota il fermapie prima la una e poi dopo, sta pondrei con Maya, però, vabbè. Ascolta, ci sentiamo, dai che devo scappare. Salutami tutti, da Ambasciata Stefania e fai gli auguri a tutti quanti. Ciao Omar, grazie, ciao. Thank you. Thank you.